e starsene lì sul filo per chi poi non telefona. Ho il cuore a metà dipinto di smog, ma il grigio mi fa cercare su Vogue un sogno liberty. Fascino indiscreto, luci sulla piazza, notte senza tempo scivola. Thank you.